Suonano al citofono i testimoni di paura. Esco per trovare un giorno solo leggermente uguale al precedente. I binari all'infinito non si incontrano del tutto. Poi mi trovo in fondo a una banchina, guardo il cielo in fondo all'orizzonte. Non importa cosa accade, prima o poi in ritardo sempre arriva il treno. Non importa cosa accade, prima o poi in ritardo sempre arriva il treno. Bollate centro, non ci sto più dentro. Prossima fermata, bollate centro. Bollate centro, soffia forte il vento, porta via i colori dal mio tempo. Non ci sto più dentro. Non ci sto più dentro. Non ci sto più. Siamo sempre meno dentro alla carta vetrata. Esco a respirare aria, la musica all'interno è già lontana. Quando arriva il vento sono pronto per partire. Poi mi trovo in coppa una panchina, guardo il mio futuro all'orizzonte. Non importa cosa accade, prima o poi in ritardo sempre arriva il treno. Prossima fermata. Non importa cosa accade, prima o poi in ritardo sempre arriva il treno. Si scende sempre a bollate centro. Non ci sto più dentro. Prossima non ci sto più dentro. Bollate centro, pronto a rientro. Forse chi trasmette avrà già spento. Bollate centro, pronto a rientro. Forse chi trasmette avrà già spento. Non ci sto più dentro. Non ci sto più dentro. Non ci sto. Bollate centro. Non ci sto più dentro. Prossima fermata, bollate centro. Bollate centro. Soffia forte il vento, porta via i colori dal mio tempo. Non ci sto più dentro. Non ci sto più dentro. Cosa accade, prima o poi si scende sempre a bollate centro. Non ci sto più dentro. Prossima fermata. Non importa cosa accade, prima o poi si scende sempre a bollate centro. Non ci sto più dentro. Prossima fermata. Non importa cosa accade, prima o poi si scende sempre a bollate centro. Non ci sto più dentro. Prossima fermata. Non ci sto più dentro, non ci sto più dentro, non ci sto più dentro, non ci sto più dentro.